English 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. E da Katy Perry, perché è lei la nostra ospite di questo English 24. Beh, purtroppo non ce l'abbiamo in carne e ossa. È bella, brava, simpatica, ma l'abbiamo incontrata qualche settimana fa. Era al Festival di Sanremo. Abbiamo recuperato quello che lei ha raccontato a Sanremo. L'abbiamo così condensato in alcuni brevi estratti che ora ascoltiamo insieme in questa puntata di English 24, ma che ritroviamo anche nel nostro mensile in edicola. A Sanremo lei ha cantato Hot and Cold, non solo, ma soprattutto il suo secondo hit, un grande successo come il precedente I Kissed a Girl. Lei però non è una cantante ragazzina dal bell'aspetto come tante altre. It's not as prepackaged as some of the pop acts tend to be. I mean, I've jumped into a cake, I've come down from a banana, I have done a series of stupid things to make these not stupid but just I guess entertaining things to make the performances more memorable, and I think that you know, I still have a lot of gospel left in my veins that'll never go away, and I think I have a healthy balance between, of course people want to know the details of, you know, a so-called famous person. They want to know the details of that person's life, but I do believe that a lot of people are just as interested in the music, in the performance, and so I think it's a healthy balance. Beh, in gamba questa ragazzina, è molto tosta. Intanto subito mette la differenza su questa canzone, ma secondo me anche un po' su come intende lei la carriera rispetto a tante altre sue coetanee che sono venute fuori in questo periodo, ma non solo. Sì, ammette, insomma, prima di tutto appunto spiega: i pop acts are not as prepackaged as one might think. To be prepackaged vuol dire letteralmente preimpacchettati, cioè troppo preparati prima. Lei dice non è proprio così, nel senso che sì, io ho fatto delle cose strane, I've jumped into a cake, forse qualcuno se la ricorda, no? Lei fa questo salto dentro a questa gigantesca torta, però dice, poi spiega che non è proprio come sembra, solo una bravata. Sì, forse qualcuno gliela suggerita, perché dice I've done stupid things, cose stupide, e poi si corregge, dice ma magari non proprio stupide. Sì, perché la parola stupido poi alla fine, insomma, ha sempre comunque un'accezione negativa, quindi si corregge e dice well I guess entertaining things, cioè cose, vabbè, semplicisticamente possiamo dire stupide, perché spiega anche I've come down from a banana, c'era questa gigantesca banana che poi era uno scivolo da cui lei scendeva, e però dice sono in realtà delle cose di spettacolo, entertaining things, che fanno to make the performances more memorable, che rendono lo spettacolo più memorabile per chi lo vede, magari dal vivo o per chi lo vede filmato. Lei però ha delle basi solide nella sua formazione musicale, ha studiato. Sì, naturalmente si sente, insomma, chi ha sentito bene le sue canzoni riconosce che c'è del talento vocale, anche probabilmente molto coltivato. Infatti spiega I still have a lot of gospel left in my veins, quindi c'è ancora molto di questo modo di cantare gospel nelle mie vene, e secondo lei it will never go away, quindi per quanto le mie possano essere definite canzoni tipiche, canzoncine pop, poi in realtà, come molte cose semplici, hanno delle basi molto più solide. E anche la gente, lei dice sì, apparentemente forse si interessa agli aspetti più superficiali, però forse vuole anche ascoltare la mia musica. Questo è molto interessante, no? Perché lei ammette people wanna know the details of the so-called famous people, quindi vogliono, è vero, no? Poi sappiamo, ci sono tutti nei giornali che raccontano i pettegolezzi, le storie d'amore, le vicissitudini con l'alcol e quant'altro, quindi i dettagli delle vite personali delle persone, però secondo lei le persone, o almeno alcune persone, are just as interested, sono tanto interessate nei dettagli della vita quanto in the music and in the performance, quindi nella musica e nello spettacolo che queste famous people fanno. Healthy balance, quindi diciamo un equilibrio salutare, lo possiamo definire così. Beh, insomma, è stata I Kissed a Girl a farla scoprire, quindi ho baciato una ragazza. Grazie a questo brano d'impatto ha potuto fare conoscere chi è. I knew exactly what I was doing when I put out a song called I Kissed a Girl. I knew the kind of, you know, people that were going to come from all different aspects of life and go, oh, you know, what is she saying? But I think that it did strike a chord in a lot of different people, because it was almost like an unspoken spoken. It's, you know, it's been a part of a lot of cultures, and you know, it was a song about curiosity. It has taken a little bit of time for me to kind of, I guess, unravel to the world that I am my own person, and that every step of the way I've kind of been trying to pave my own path. Non stupida, l'abbiamo detto, Katy Perry, perché dice, è ovvio che con una canzone dal titolo I Kissed the Girl sapeva che avrebbe avuto quell'impatto lì, ecco. Quindi I knew exactly what I was doing, quindi sapevo esattamente che cosa stavo facendo, anche perché poi questa è stata la canzone, credo, più scaricata della storia da iTunes e da tutti gli altri siti da cui si può scaricare legalmente, e non voglio pensare a quelli illegali. Però è stata anche uno dei video probabilmente più visti, e il video è... chiaramente riflette esattamente questo, cioè a girl that kisses other girls, quindi... Tra l'altro lei dice, io sapevo però che questo tema, insomma, cerca di nobilitare la canzone dicendo non era solo un'operazione per far parlare di me, comunque era un tema di cui si parla. Sì, dice naturalmente, lo sapevo che people from all different kinds of life, quindi persone di tutti i tipi avrebbero riso e avrebbero detto what is she saying, ma cosa sta dicendo una ragazza che bacia un'altra ragazza e ne parla in modo così come se fosse una cosa normale. Però lei dice in realtà it strike a chord, cioè la canzone ha toccato una corda, noi diremmo in italiano un nervo scoperto, in inglese si dice to strike a chord, quindi toccare come se fosse la corda di un violino o la corda di un o il tasto di un pianoforte, no? Un tasto sensibile. E poi dice una cosa carina, it's a song about curiosity. Sì, perché poi alla fine forse, adesso non lo so, però è vero, c'è molta letteratura, molti racconti su questo, cioè su come soprattutto quando si è molto giovani la curiosity ci spinga magari, appunto, anche se siamo ragazzi, a baciare una ragazza, o magari un ragazzo che bacia un altro ragazzo per curiosity. Tra l'altro lei dice, giusto, tutti si sono molto stupiti per questa canzone, tutti si sono interessati a me, però poi si trattava di far conoscere quello che io voglio fare davvero. Sì, lei dice forse insomma ci vorrà un po' di tempo, però it has taken a little time, quindi ci è voluto un po' di tempo. Questa canzone credo sia uscita all'inizio dell'anno scorso o metà dell'anno scorso, quindi ci è voluto del tempo perché dopo lo scandalo, appunto, le people that go ridono, come ha detto prima lei, si guardasse a Katy Perry come artista, e quindi vedere che lei, she have tried to pave my own path, ho cercato di pavimentare il mio sentiero, letteralmente, cioè di costruire la strada artistica su cui mi muovo. Noi abbiamo sentito Katy parlare della curiosità verso i so-called famous people, cioè la cosiddetta gente famosa, però un altro tipo di curiosità è quello sempre di cercare le somiglianze, è sempre un gioco, a volte un po' cattivo, ma lei confessa di essersi mai ispirata a qualcuno? There's always going to be comparisons because I look like somebody or something else like that, but... You know, I try and draw from a couple of different people who have always influenced me. I've always been influenced by Freddie Mercury from Queen, his pizzazz, I guess you'd say, his kind of just like balls to the wall attitude when he stepped on stage. I love that kind of spontaneous colorfulness of Cyndi Lauper. I love that that edge of Chrissie Hynde from The Pretenders. And you know, I really love the kind of acoustic bare bonesness of Joni Mitchell, and I think you'll start to see over time some of the elements that I've kind of borrowed from those fantastic ladies and the biggest queen himself. Posso dire che lei adesso è molto serena perché evidentemente non hanno tirato ancora fuori qualcosa di grosso, poi però se qualcuno le farà così, la tirerà in mezzo in qualche scandalo più grosso, forse non sarà così serena nel dire ma sì, in fin dei conti la gente è un po' interessata alla vita dei personaggi pubblici, ma non tanto, sì, ci saranno sempre dei paragoni, però per ora è abbastanza tranquilla su questo. Sì, automaticamente pensa sempre a paragoni su come si canta, quindi there's always gonna be comparisons, gonna be not. Naturalmente sappiamo, lei lo dice perché è americano, un inglese avrebbe detto there's always going to be comparisons, lei dice gonna be, per vedere se I look like somebody or somebody else is like that, ma ovviamente lei dice lo prende con ma forse è vero, cioè qualsiasi artista ha prima di sé una lunga storia di altri artisti, è impossibile non copiare da qualcuno. I look like somebody, ovviamente, assomiglio a qualcuno, certo. Lei però dice... ho delle ispirazioni, e tra l'altro utilizza un'espressione molto carina, molto interessante. Dunque, prima di tutto dice I try and draw from a couple of different people. Questo è un false friend, perché couple vuol dire coppia, però quando noi diciamo a couple of, la traduzione è alcune, quindi non una coppia di persone diverse, ma alcune diverse persone. Quindi to draw from, naturalmente prendere, draw vuol dire anche disegnare, ma vuol dire anche tirar fuori, quindi ispirarsi ad alcune persone, tra l'altro diverse tra loro. Diverse tra loro, ma diciamo persone di grandissimo valore. Lei, insomma, le ispirazioni perlomeno le ha scelte giuste. Naturalmente c'è Freddie Mercury from Queen, e di lui le piaceva questa kind of possessed persona, quindi persona, attenzione, non è persona come lo intendiamo noi, ma personaggio, quindi il personaggio che Freddie Queen impersonava per l'appunto quando saliva sul palco. Tra l'altro, when he stepped on stage, tra l'altro passa da Freddie Mercury a un altro personaggio molto colorato, e colorito entrambi in questo senso, Cyndi Lauper. Sì, un po' una meteora nel mondo pop, però sicuramente quando era il suo momento di successo tutti la conoscevano per i capelli, per il modo di vestirsi, sicuramente, un po' tipo Vivian Westwood. E infatti lei parla di una spontaneous colorfulness. Colorfulness, naturalmente sappiamo, ci attacchiamo quel colorful, pieno di colori, colorfulness, il fatto di essere pieno di colori. Quindi questa colorazione, super colorazione spontanea di Cyndi Lauper. Invece non famosissima in Italia, ma negli Stati Uniti sicuramente molto di più, Chrissy Hynde. Chrissy Hynde, e di lei le piaceva The Edge. Il fatto edge naturalmente vuol dire angolo, vuol dire punta, e c'è addirittura un'associazione di persone che si spingono ai confini della scienza che si chiama The Edge, quindi è quel fatto di essere appunto al confine con qualcosa, sempre sul punto di esagerare, ma restare invece ancora in un livello di sfida accettabile. C'è anche uno degli U2, lei però non li cita invece Joni Mitchell, un'altra grande signora. E di lei le piace, qui un'espressione molto complicata, che fa capire anche appunto quanto sia interessante il personaggio di Katy Perry, dice I really love the acoustic bare-boneness. Allora, bone, osso, bare bone vuol dire essere a ossa nude praticamente, quindi il fatto di essere scheletrica, ma naturalmente non solo dal punto di vista fisico, ma anche di spogliarsi di qualsiasi orpello dal punto di vista acustico. Ha parlato di tutte queste fantastic ladies e poi si concede un gioco di parole, un calambur delizioso secondo me. Ah, dici di Queen? Del Queen, perché ci sono tutte signore e poi c'è la regina su tutte, The Queen. Che ovviamente naturalmente era Freddie Mercury, the biggest queen himself, tant'è che appunto lei dice all'inizio Freddie Mercury from Queen, perché noi magari siamo abituati a dire i Queen, però in inglese invece spesso loro sono Queen e basta, che vuol dire, se lo sappiamo, anche regina. E non loro ovviamente era la regina delle regine. Katy Perry è veramente in gamba, una ragazza simpatica, la ritroviamo. Vedrete anche nel nostro English 24 in edicola, perché la puntata termina qui. Io ringrazio Peter Bescapè in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.